Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 2 giugno, buongiorno di nuovo a tutte e tutti e bentornati su Liberi Dentro ed Uradio, il nostro programma talk che parla tra il carcere e la città. Buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. E sempre siamo in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV, canale 118. Oggi intanto apro facendo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici perché è la festa della Repubblica Italiana, una data storica che ha cambiato il volto dell'Italia. Tutti gli anni, infatti, il 2 di giugno si ricorda il referendum con cui gli italiani furono chiamati a votare nel 1946 per scegliere la forma di governo dell'Italia dopo la fine del fascismo. Oggi il 2 giugno venne celebrato come una festa nazionale, ma all'epoca il clima era tutt'altro che festoso. Naturalmente l'Italia era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e il voto si svolse tra le macerie dei bombardamenti alleati e quelle delle demolizioni dei nazisti in ritirata. Alla fine gli italiani scelsero la Repubblica con 12.718.641 voti contro i 10.718.502 della monarchia. Quindi una data in cui contemporaneamente gli italiani votarono anche per eleggere i membri dell'Assemblea Costituente a cui venne affidato il compito di redigere la nuova Costituzione che entrò in vigore poi nel 1948. Proprio così, Caterina, però non tutti sanno che dietro alla festività si celano aneddoti e curiosità molto intriganti, alcuni dei quali sono rimasti ignoti fino a pochissimo tempo fa. È proprio così, in realtà pochi sanno che il voto si tenne anche nella giornata del 3 giugno e che fu il primo della storia italiana a essere il suffragio universale. Pensate, parteciparono tutti i cittadini italiani maggiorenni di ambo i sessi. E nonostante i risultati vennero resi noti soltanto il 10 giugno e quindi il primo giorno di vita della neonata Repubblica Italiana fu l'11 giugno, si decise fin dal 1947 di celebrare la festa il giorno dell'anniversario del referendum e non della proclamazione. Scusami, ma è sempre stata festeggiata il 2 giugno o anche in altre date? Non sempre, infatti dal 1977 al 99, a motivo della crisi economica, quella della fine degli anni 70, la celebrazione fu spostata sempre la prima domenica di giugno, in modo da non far perdere alcun giorno di lavoro. Tuttavia nel 2001, su impulso del presidente allora Carlo Azeglio Ciampi, la ricorrenza nazionale ha abbandonato lo status di festa mobile e ha riassunto una collocazione nel giorno appunto simbolo. Appunto il 2 giugno. E Caterina, senti, sul Corriere della Sera all'indomani del referendum venne pubblicata una foto famosissima, una foto che ritrae delle donne, una donna con un bambino in braccio. Che cosa mi dici rispetto a questa foto qui? È appunto il volto, questa donna alle cui spalle appare l'articolo sul Corriere La Repubblica ha vinto, il volto della Repubblica Italiana, la celebre foto, scattata dal fotografo Federico Patellani. E per oltre 70 anni questa foto è stata utilizzata come emblema della svolta repubblicana, simbolo di libertà e di anche partecipazione femminile, perché ricordiamo fu il primo suffragio universale in Italia. Eppure, soltanto nel 2016, qualche anno fa, grazie alle ricerche del giornalista Mario Tedeschini Lalli, quel volto ha avuto una sua identità. E infatti questo giornalista ha scoperto che la giovane donna non era una semplice modella assunta per l'occasione, ma un'impiegata del quotidiano Avanti, si chiamava Anna Iberti, all'epoca 24enne, e futura moglie, l'anno successivo, del giornalista Franco Nasi, cronista dello stesso giornale. I due infatti, stando al racconto delle figlie che ha rintracciato il giornalista Tedeschini, Lalli, convolarono a nozze nel 1948, quindi quando entrò in vigore la nostra Costituzione. Caterina, che cosa ci fai ascoltare di Elvis oggi? Allora, oggi ascoltiamo Hound Dog, che è una cover famosissima dagli anni 70 e apparsa anche nella colonna sonora di numerosi film di successo. Vediamo se la riconoscerete anche voi ascoltando. You ain't rieccovi, bentornati sempre sul nostro Liberi Dentro Eduradio, il nostro spazio dedicato al carcere e alla città. E oggi, sempre con Antonella, la nostra finestra dal mondo ci porta in Messico, vero? Sì, oggi parliamo di Messico e di un viaggio esemplare, perché una delegazione dell'esercito zapatista di Liberazione Nazionale è salpata dal paese in un viaggio su un veliero con destinazione Europa per risvegliare i popoli dalla invasione del capitalismo e incontrare gruppi di 29 paesi nel continente europeo. In effetti questa spedizione parte dopo 500 anni che lo spagnolo Hernán Cortés e i suoi uomini conquistarono il Messico. I membri dello Esquadrón 421, quindi 421, è composto da 7 persone. Tutte rigorosamente Maya, sono quindi indios, 4 donne, 2 uomini e una persona che non si identifica in nessuno dei due generi, che hanno lasciato Isla Mujeres a 13 chilometri dalla costa caraibica messicana e hanno iniziato insieme il loro viaggio su questo veliero tedesco che hanno poi definito e hanno ribattezzato, anzi, la montagna. La navigazione dura 6 settimane e l'arrivo in Europa è più o meno previsto per metà giugno. Arriverà prima a Vigo, in Galizia, in un viaggio che vuole un po' simulare un'invasione dell'Europa pacifica, assolutamente pacifica, in ricordo della conquista del Messico da parte degli spagnoli, appunto 500 anni fa. E quindi questa delegazione era già stata all'estero o è la prima volta? No, Caterina, guarda, la storia è singolare anche per questo, perché nessuno dei 7 zapatisti aveva mai viaggiato, erano stati magari su una lancia per raggiungere qualche paese vicino. Sai che gli zapatisti vivono in Chiapas, in alcune zone hanno creato dei mar, cioè dei municipi autonomo rebelde, e dei caracol, caracol in spagnolo significa lumaca, che sono dei centri a metà tra un villaggio e un accampamento, basati su processi decisionali collettivi, secondo il principio del comandare obbedendo al popolo, ovviamente, anche in questo caso. Nel loro interno c'è una gestione molto equa, si lavora su economia, giustizia, istruzione e sanità, grazie a delle giunte del buon governo, che sono degli organi composti da civili e soprattutto donne, che amministrano a rotazione la vita della comunità in autonomia e secondo principi non capitalistici. Comunque, prima di raggiungere la Isla Mujeres, una carovana zapatista ha percorso circa 1000 chilometri del Chiapas. Il Chiapas è una regione anche abbastanza estesa. E hanno annunciato l'operazione a metà aprile e in Europa si incontreranno con tutti quelli che li hanno invitati a parlare delle loro storie, dei loro dolori, rabbie, fallimenti e conquiste. E tra i 29 paesi ci sono l'Austria, l'Ungheria, la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito. E loro vogliono condividere che la vita è a rischio sia per chi vive in città sia per chi vive in campagna e che è ora di svegliarsi, se non c'è vita non ci sarà niente, è quello che vogliono dire. Ricorderanno anche che è necessario lottare contro il capitalismo perché distrugge la madre natura. Hanno fatto una scelta molto molto estrema, che è quella di vivere isolati in realtà e di vivere in piccoli agglomerati, in piccoli villaggi, con un sistema di condivisione praticamente di tutto. Quindi è una rivendicazione molto importante che va anche nella direzione della tutela delle minoranze e delle risorse del pianeta. È proprio così, Caterina, perché la loro lotta si basa sostanzialmente su quello che hai detto. Comunque, lo stesso giorno della partenza della delegazione zapatista, il presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenuto un discorso con il quale alla fine si è scusato con la popolazione maya per gli abusi subiti nel corso della storia, sia durante i 3 secoli di dominazione coloniale che nei 2 secoli successivi all'indipendenza del Messico. Lo stesso presidente si è soffermato sulle stragi compiute durante la guerra delle caste, siamo nel 1847-1901, che cominciò con la rivolta dei Maya nella penisola dello Yucatan. E fuori dal museo in cui ha parlato Obrador, alcuni manifestanti hanno però protestato per chiedere al presidente l'accesso alla sanità e più opportunità per i giovani. Tra i progetti criticati dai nativi c'è quello del tren Maya, un treno che coprirà 1500 chilometri, quindi una ferrovia molto invasiva, che attraverserà 5 stati, aree archeologiche e foreste. Antonella, a chiusura allora della nostra finestra sul mondo di questa storia che ci ha raccontato, sempre di Battiato? Allora, oggi lancio La Cura, che è un brano del 2000, famosissimo, meraviglioso, che vi invito tutti ad ascoltare. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro du Radio. Oggi siamo con un nuovo ospite, Luca De Cembrotto, il professore a contratto, assegnista di ricerca presso il Dipartimento Universitario in Scienze dell'Educazione Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno Caterina. Ho piacere di averti qui per la prima volta su Eduradio e spero che ci siano, anzi sicuramente ci saranno altri appuntamenti. E parliamo con te a proposito dell'università e siccome già la settimana scorsa in un editoriale che avevo lanciato nei Buongiorni del Mattino avevo parlato di università e dei 1000 che studiano in carcere, riprendendo questa notizia dalla Repubblica, riportando un bilancio dopo i 3 anni appunto dalla nascita della Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Universitari, la CNUPP, che ha coinvolto per l'appunto in 3 anni 32 atenei e 82 istituti penitenziari. Senza però dimenticarci che in quest'anno di lockdown sono stati mesi molto difficili per chi si è iscritto all'università dal carcere. Abbiamo notizie, anche chi ci ha scritto dalle case circondariali, della fatica nel sostenere gli esami, appelli più e più volte rimandati e quindi anche un po' la disillusione, anche un po' la disperazione di aver studiato e di non essersi poi presentati all'appello. Quindi volevo parlare con te, Luca, che cosa significa l'accesso allo studio universitario per le persone prive della libertà personale e da quando esiste questa possibilità? Ok, grazie. Io partirei dalla seconda domanda che mi hai fatto, perché è quella che ci colloca così nel sentiero della storia di questa esperienza che ha ormai tanti anni. La prima esperienza di polo universitario penitenziario, per cui di accesso strutturato all'università in carcere, nasce a Torino nel 1998 con degli accordi presi tra l'Università di Torino, il Tribunale di Sorveglianza e il PRAP del Piemonte. Però, come dire, sarebbe limitativo fermarsi a questo accordo che comunque sancisce la nascita di quelli che attualmente sono i poli universitari, ma possiamo andare indietro nel tempo a riprendere il primo nucleo di esperienze proprio dell'Università di Torino negli anni Ottanta, più informali, legati ad alcuni detenuti che venivano chiamati detenuti politici, ok? E al loro esercizio del diritto allo studio, ma ancora prima si può arrivare negli anni 60 ad esperienze che si sono sviluppate a Padova da dei detenuti trasferiti dal carcere di Alessandria a Padova e che espressero il desiderio di iscriversi a ingegneria civile. E da lì partì anche in questa città, quella che poi è diventata un'esperienza che è confluita all'interno dell'attuale progetto dei poli universitari penitenziari. Ecco, questo per dare una storia proprio sintetica. Nell'ordinamento attuale, l'attuale ordinamento penitenziario contiene un articolo che parla di istruzione e parla di studi universitari, l'articolo 19, e successivamente anche i regolamenti hanno sempre tenuto conto di questa possibilità. E da qui arriviamo a che cosa significa, no? L'accesso agli studi universitari in carcere. E la mia posizione, che è la posizione di tanti altri studiosi, è quella dell'accesso a un diritto, il diritto allo studio, che è garantito nella nostra Costituzione, all'articolo 34, ma anche, sempre riferendoci alla nostra Costituzione, c'è il diritto all'uguaglianza che non è soltanto quella formale, dichiarata, che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, davanti allo Stato, ma anche quella sostanziale di azioni pubbliche fatte per eliminare le discriminazioni e le diseguaglianze. E io penso che una di queste sia proprio il tema dell'accesso agli studi, soprattutto laddove le storie di vita delle persone, in questo caso persone private della libertà, sono storie che hanno visto degli scontri, delle difficoltà, degli insuccessi proprio legati al tema dell'istruzione. Per cui, che cosa significa l'università? Ma significa essenzialmente accedere a delle conoscenze, aumentare il grado di partecipazione alla vita democratica del nostro paese e promuovere un percorso di emancipazione personale. Quindi, come dire, agire, io mi occupo di pedagogia, per cui noi utilizziamo delle categorie, in questo caso è quella del possibile, no? Della possibilità, considerare infinite ipotesi di vita che nascono da questo incontro e da questo percorso. Chiarissimo Luca, ed è già l'ora di lanciare un brano musicale. Cosa facciamo ascoltare a chi ci ascolta tra la città e il carcere? Allora, direi che potremmo far ascoltare Free to Decide dei Cranberries. Bentornati sempre su Liberi Dentro, sulle note dei Cranberries. E passiamo alle azioni. E per quanto riguarda le problematiche e i vantaggi all'accesso allo studio universitario, che cosa manca ancora per garantire questo diritto all'interno del carcere? Allora, rispetto ai vantaggi, oltre a quello che ho detto poco fa, certamente c'è una questione legata, no, al senso del tempo privato della libertà, che che acquista tutto un altro significato all'interno di un percorso dove non si sta soltanto studiando sul libro cartaceo, ma si sta incontrando persone, ci si sta confrontando, si sta cambiando la propria prospettiva anche di vita, ok? E c'è da dire che questo ha un altro vantaggio dal mio punto di vista, cioè quello di uno stimolo, ma anche di un'attenzione particolare ai diversi gradi di istruzione. Io vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando, dato che non sempre si ha questa percezione, ma il 41% delle persone private della libertà ha un titolo di studio uguale o inferiore alla licenza media, e del 45% delle persone recluse noi non sappiamo nemmeno il titolo di studio. Per cui, come dire, è proprio un'emergenza quella del garantire l'accesso agli studi. E l'università, come dire, è la punta più alta di questo grande iceberg, è un'occasione molto, molto grande, che ha tuttavia dei limiti. Quali sono oggi questi limiti? Beh, sicuramente quella dell'accesso reale agli studi universitari, cioè si tratta di un diritto o è ancora considerato un privilegio? Un privilegio che qualcun altro in maniera esterna decide se si può fruire o meno. E ancora, andando più su diciamo contenuti tecnici, però c'è l'accesso da parte delle donne, delle recluse a questo tipo di percorso. In realtà, se andiamo a vedere i dati su i 1034 iscritti del 2020, 64 erano donne. Ora, queste 64 rappresentano circa il 6% degli iscritti, che se messi a confronto al 4% delle donne recluse, ci si rende conto che è rappresentata la popolazione femminile. Però, se andiamo a guardare nei numeri assoluti, ecco, questo non è vero. Bisogna lavorare affinché anche i reparti femminili possano accedere maggiormente a tutto quello che è il mondo degli studi universitari. Altri difficoltà molto veloce, quella dei trasferimenti. Quando ci si trasferisce da un carcere a un altro, non è detto che si riesca a mantenere un dialogo così fluido con gli atenei di riferimento, e ancora la sfera del digitale. E un aspetto che a me sta molto a cuore è il senso del percorso universitario. Cioè, oggi ancora, secondo me, rimane una domanda alla base. Stiamo proponendo e promuovendo un percorso individuale del singolo ristretto, oppure stiamo costruendo una nuova porzione di comunità accademica che ha bisogno anche di spazi per confrontarsi tra studenti privati della libertà e studenti liberi, e di occasioni di costruzione del sapere? Ecco, queste penso che siano le sfide attuali. Grazie mille, Luca, e di questa cosa qui, allora, se mi permetti, ne parliamo la prossima volta, approfondendo allora il senso del percorso universitario e anche uno sguardo internazionale per vedere che cosa capita negli altri paesi, come va l'università in carcere. Chiedo sempre a te di lanciare un brano musicale per i nostri ascoltatori. Allora, l'ultimo brano che vi lascio è Space Oddity di David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. E rieccovi, bentornati su Liberi Dentro. Tra poco le nostre rubriche oggi parliamo di avranno come tema i dialoghi con la cittadinanza e con cui parleremo con Renata Pepicelli. Quindi seguiteci se ci state ascoltando su Lepida tra poco oppure su Teletricolore alle 17 e vi ricordo anche di scriverci come sempre a redazione liberi dentro @gmail.com oppure se volete scriverci una lettera Chiesa Santissima Annunziata via San Mammolo 2 40 136 Bologna. Un ringraziamento sempre al nostro Pasquale Titagnello sempre qui in regia al montaggio delle nostre puntate e alla collega Antonella Cortese, ma in particolare a tutti voi che ci ascoltate e ci seguite tutti i giorni. Buona giornata e a domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.